Bisognava ordinare documenti, scrivere verbali e circolari. Di questo lavoro si occupava Putin. Forse non si trattava di compiti decisivi, ma non erano irrilevanti. Ed è per questo che lo chiamavano ufficiale Stasi. In qualità di ufficiale di collegamento, Putin entra ed esce dal dipartimento locale della Stasi a Dresda. Anche durante il tempo libero esistono stretti contatti, come ricorda il collega della DDR, Wenzel. Erano molto interessati a conoscere le nostre storie e questo aveva un feedback sul lavoro. Loro si trovavano sul suolo tedesco, nel territorio della DDR, e dovevano farsi un quadro dei problemi tedeschi. Inoltre, in qualità di informatore, è importante conoscere anche determinate questioni storico-culturali e ciò favorì naturalmente la nostra cooperazione. Alcune foto ricordano le imprese comuni nel quadro dell'amicizia tedesco-sovietica. Escursioni sui monti dell'Harz, gita di piacere con le famiglie. Ci si tiene d'occhio anche al di fuori dell'orario di servizio. Putin abita vicino al suo ufficio, in un casermone prefabbricato. Gli uomini del KGB non parlano molto del loro lavoro. Per me, in qualità di ufficiale dei servizi segreti, era ben chiaro in cosa consistesse il suo lavoro. Quella gente era responsabile dell'attività di spionaggio dell'avversario nel teatro di operazione. Vale a dire nella Repubblica Federale Tedesca. Il generale Ivan Ustinov ha diretto il terzo dipartimento del KGB, il reparto cui hanno fatto parte Putin e Shirakov. Il suo scopo è noto: spionaggio e controspionaggio militare, anche contro la Repubblica Federale Tedesca. Ancora oggi alcuni dati sono segreti. Anche adesso questo lavoro continua in maniera estremamente attiva. Perciò è difficile raccontarvi qualcosa di concreto sui risultati del nostro lavoro. Siamo alla metà degli anni Ottanta e nei settori occidentali vengono messe a punto tecnologie sempre più innovative. I computer e le reti telematiche iniziano a diffondersi e diventano così un nuovo obiettivo dello spionaggio del KGB. Nel 1989, quasi per gioco, un gruppo di ragazzi della Germania Ovest riesce ad accedere attraverso la rete telematica a informazioni militari riservatissime. Ma è un gioco che si rivelerà molto, molto pericoloso. Nel 1989, da un appartamento di Hannover, cinque ragazzi, sfruttando le nuove tecnologie, si introducono nella rete telematica mondiale. Si definiscono hacker. La loro impresa rivoluzionerà lo spionaggio. La cosa aveva un po' a che fare con una festa. Eravamo sei o sette persone con due linee telefoniche. Perciò due potevano stare davanti al computer e gli altri sedevano accanto. Gli hacker tedeschi si fanno strada nelle reti di computer create da poco, le antesignane di Internet. Queste reti collegano istituti di ricerca e basi militari. Era anche un viaggio davvero emozionante che compivamo tutti insieme. Arrivavamo in America e poi andavamo da New York a San Francisco. E quando alla fine arrivamo a Berkeley, ci trovammo anche davanti ai computer degli istituti di ricerca militari del posto. Sui computer dei centri di ricerca, gli hacker tedeschi scoprono dati e codici di accesso segreti. Decidono di trasformare le loro informazioni in denaro. A più riprese consegnano a ufficiali del KGB dischetti con programmi, dati e password. Ancora oggi i servizi segreti non parlano dei danni che vennero provocati in questo modo. Quando uno degli hacker, il liceale di Hannover Karl Koch, vende la sua storia ai giornalisti, l'affare con il KGB non può più essere tenuto segreto. Tutte le persone coinvolte vengono arrestate. Alcuni mesi dopo, Karl Koch viene trovato morto. Secondo il rapporto della polizia, si sarebbe dato fuoco. Il